America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. We should not raise taxes on middle class families or small businesses. Barack Obama di nuovo all'attacco ieri in campagna elettorale. La classe media deve essere riscattata. Abbiamo passato un periodo, ha detto il presidente americano, che ha arricchito i più ricchi. Just this morning there was some news that came across the wire that said that the unemployment rate has dropped to 8.1%. Mitt Romney, anche lui in campagna elettorale, accusa invece Barack Obama di aver distrutto l'economia, di non aver preso le misure adeguate, di aver avuto 4 anni di tempo per uscire dalla crisi, di non esserci riuscito. I dati sono chiari, la disoccupazione resta altissima. As I've said many times, monetary policy is not a panacea. Monetary policy by itself is not going to solve our economic problems. Ben Bernanke, l'uomo chiave, la settimana prossima potrebbe decidere una nuova misura accomodante, diciamo una nuova misura di quantitative easing, quindi potrebbe decidere di immettere più soldi sul mercato per riscattare il debito sovrano americano, tenere i tassi di interesse molto bassi, una manovra dunque espansiva che potrebbe aiutare l'economia e in qualche modo influire sulla campagna elettorale. L'ultimo incidente che ha colpito l'opinione pubblica americana, l'eccidio di Aurora in Colorado, ma ci sono molte altre notizie ogni giorno che ci ricordano quanto il traffico di armi sia pericolosissimo, non soltanto dall'interno degli Stati Uniti, ma dall'estero, gli attacchi in Siria, le crisi internazionali, il rischio che esploda la polveriera medio orientale. Ecco, questi che vi ho descritto, la classe media sotto attacco dai ricchi, quindi una polarizzazione all'interno degli Stati Uniti, le crisi di politica estera, le crisi di politica interna, fanno parte del dibattito elettorale americano. Ve ne parlo oggi perché siamo grosso modo a un mese dalle convention, quindi dal momento focale di questa corsa elettorale che seguiamo con voi ormai quasi da un paio d'anni. Oggi è l'ultima puntata prima dell'interruzione estiva e dunque voglio dedicare questa puntata proprio alle prospettive dei due candidati. Cominciamo dai sondaggi. I sondaggi più recenti danno Obama in leggero vantaggio rispetto a Romney. Questa corsa elettorale sarà una corsa che sarà decisa su alcuni stati, sui cosiddetti swing states. E dunque consentitemi di darvi un piccolo spaccato di come funzionerà sul piano tecnico. I candidati devono vincere ciascuno quanti più stati possibili, perché ogni stato contribuisce con un certo numero di voti elettorali all'elezione del presidente americano. Ciascun candidato per vincere deve avere un minimo di 270 voti elettorali. Come siamo dunque? Beh, i calcoli sono molto precisi sul piano tecnico. Obama ne avrebbe già assicurati 185 più circa 32, diciamo, favorevoli a lui, e dunque sono 217 voti. Romney ne avrebbe 158 più 48 favorevoli a lui, 158 decisamente a favore del candidato repubblicano, per un totale di 206. Ecco, ciascuno dei candidati per arrivare a quota 270 ha bisogno dunque ancora di un certo numero di voti, un numero alquanto rilevante. Il totale dei voti incerti è 115 e questi voti sono distribuiti sui cosiddetti swing states. I più importanti di questi stati sono l'Ohio e la Florida, ma poi c'è anche il New Hampshire, la Pennsylvania, la Virginia, il Colorado, il Nevada. Ecco, sono gli stati sui quali si concentrerà la battaglia elettorale. Ma vorrei aggiungere che questa corsa elettorale, che per ora vi abbiamo descritto come una corsa a due, in realtà è una grande elezione, perché in gioco c'è anche il Parlamento americano, c'è il rinnovo della Camera, il rinnovo completo della Camera, dove la maggioranza dovrebbe essere di nuovo repubblicana, e c'è anche il voto per il Senato. I repubblicani vorrebbero conquistare anche la maggioranza al Senato, che per ora è sotto il controllo democratico. Io ho con me in linea Paolo Valentino, inviato del Corriere della Sera, che si trova a Boston. Buongiorno Paolo. Buongiorno Mario. Dunque Paolo, ecco, tu sei andato a Boston, diciamo ci sono varie cose interessanti a Boston. Intanto c'è il quartiere generale di Mitt Romney, il Massachusetts è il suo stato di origine, ma c'è anche una corsa molto interessante per il Senato. Possiamo prendere quella come esempio di quanto questa corsa elettorale sia in realtà diversificata in mille rivoli su tutto il territorio nazionale, cioè la corsa fra Scott Brown, senatore repubblicano, Elizabeth Warren, democratica, che cerca di conquistare questo seggio. Ecco, dacci il polso del Massachusetts intanto e soprattutto di questa corsa al Senato. Intanto è una corsa molto evocativa e di grande significato. Ricordiamo che è in ballo il seggio che fu per quasi 40 anni, per 40 anni di Ted Kennedy, e che Scott Brown ha preso in una elezione supplettiva appunto dopo la morte di Ted Kennedy. A fronteggiarlo c'è l'anima liberal del Partito Democratico, Elizabeth Warren, che tenta un'operazione abbastanza complicata, perché Scott Brown è un senatore che ha un forte appello anche al centro e quindi potrebbe, ha tutte le chance per essere riconfermato, ma è sicuramente appunto una di quelle battaglie che tengono in bilico l'esito di questa partita. Si rinnova, come sappiamo, un terzo del Senato e i repubblicani vorrebbero recuperare quei 4-5 senatori che permetterebbero loro di ribaltare la situazione, ma in realtà sul Senato la partita è ancora del tutto aperta. Ecco, scusa Paolo, i quartieri generali di Mitt Romney, insieme siamo andati a Chicago a visitare i quartieri generali di Obama, devo dire è stata un'esperienza straordinaria, la macchina da guerra, no? come ce l'ha descritta il capo della campagna di Obama. Ecco, qual è il feeling a Boston su Romney, sulla sua campagna, sui suoi quartieri generali? Ma come sappiamo, intanto Boston, diciamo, in un certo senso è terra incognita per Romney. Il Massachusetts è stato liberal. Il quartiere generale di Romney è Romney, nel senso che ha la caratteristica, cioè la personalità del suo leader, perché questa è come il quartier generale di un grande hedge fund, di una grande azienda, molto efficiente, molto tutto impeccabile, tutto è paludato, nulla a che vedere con quell'aria un po', se vogliamo, anche da un po' scanzonata che avvolge la serietà dura del quartier generale di Obama. Romney non vincerà il Massachusetts, ovviamente, come sappiamo. Il Massachusetts è uno stato che nel collegio elettorale è saldamente nella colonna democratica, ma è da qui che lui lancia questa sfida particolarmente insidiosa al presidente. Paolo, manca un mese alle convention, ci ritroveremo a Tampa, ci ritroveremo in North Carolina. Cosa succederà secondo te da qui alle convention? Io credo che continuerà il testa a testa, sarà un'elezione decisa all'ultimo minuto in pochi stati, potrebbe addirittura, alcuni ipotizzano uno scenario 2000 che tutto si risolverà in Florida. Comunque non c'è dubbio che la partita si giochi tra l'Ohio, la Florida, il Michigan, probabilmente il Nevada. Non credo che ci saranno grosse sorprese. Il problema è quello che terrorizza ovviamente la campagna di Obama, e l'andamento dell'economia, sono i dati della disoccupazione, perché potrebbero essere quelli, nella addirittura d'arrivo finale, a far cambiare il mood di poche centinaia di migliaia di elettori negli stati decisivi e riservarci una grande sorpresa. In questo momento il presidente ha un leggero vantaggio su Romney, ma è veramente un'elezione assolutamente aperta. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Vi dicevo, siamo all'ultima puntata prima dell'interruzione estiva. Questa settimana vi ho fatto ascoltare solamente canzoni estive, dunque voglio proporvi per chiudere un classico che più classico non potrebbe essere, intanto per il nome della band, i Beach Boys, e per la canzone luglio 1963, Surfing USA. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. Bushy blonde hair, surfing USA. You'll catch him surfing at the inside, outside USA. Ventura County line, inside, outside USA. Santa Cruz and Trinidad, inside, outside USA. Inside, outside USA. All over Manhattan, inside, outside USA. And down Bohemian Way, inside, outside. Everybody's gone surfing, surfing USA. We'll all be planning. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento alla fine di agosto. Buona estate a tutti, goodbye and get going!